ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. La gente non ha ancora capito, lo spazio aperto non deve essere a 30 centimetri dalla porta del mio negozio che io sto per uscire, perché a 30 centimetri ci sputiamo in faccia, il ben di Dio. Mi hai messo le mani addosso, uomo di merda. Mettiti la mascherina. Ma hai paura che fai donna? Se sei donna e pensi fa paura qualcuno, eh? O perché sei donna che si alza la voce, le mani? Devi mettere la mascherina, mi hai messo le mani addosso. Mettiti la mascherina, merda. Mettiti la mascherina. È indubbio che sia in atto una nuova guerra. È la guerra della mascherina. Non prendo posizione questa mattina se non per dire che non vedo quale sia il problema individuale nel mettersi una mascherina, che è, come ha detto giustamente Paolo Mieli questa mattina durante la trasmissione con Simone Spezzi, che semplicemente al netto di ogni pregiudizio sulla qualità, sul tipo, sul modello, su quanto sia efficace, quanto sia efficiente, quanto ci salvi, quanto ci salvaguardi, è semplicemente un presidio di cortesia verso il nostro prossimo, che nel momento in cui nella nostra saliva potenzialmente può esserci un pericolo per altre persone, evitiamo di sputare addosso alla gente. Non sputiamo come gesto di volontario e dichiarato oltraggio, ma sputazziamo ogni volta che parliamo. Micro goccioline di saliva escono dalle nostre labbra e possono essere il veicolo, il vettore di un'infezione grave che può portare anche alla morte. Detto questo, tutto il resto lo lascio al campo delle interpretazioni e dell'uso del pregiudizio da parte di chi mi ascolta. Voglio fermarmi su un dato oggettivo che avevamo già in parte anticipato sin dai primi giorni di lockdown, che il paese, il mondo anzi, sarebbe diviso su due versanti e il discrimine sarebbe proprio stato quello dell'essere o non essere mascherati. Su questa velleità di libero smascheramento come gesto virile e glorioso di affermazione della propria libertà da una parte, desiderio comunque di mantenere questo presidio di sicurezza, qualunque sia la sua totale efficacia, se non altro come segno di rispetto verso il nostro prossimo, come dire agli altri: guarda che io comunque sto attento, se anche tu stai attento, se tutti e due abbiamo la maschera, perlomeno eviteremo di sputarci addosso una possibile infezione. Detto questo, è chiaro che esiste un uso strumentale, un uso politico anche di questo atteggiamento, un uso isterico, un uso a volte che può sfociare in comportamenti vessatori da una parte e dall'altra. L'irrisione e la proclamazione dello stato di schiavitù, di sudditanza, di subordinazione da parte di chi mette la mascherina, da parte di chi appartiene al versante, al fronte degli smascherati. E la volontà censoria da parte di chi è mascherata di aggredire ogni persona che invece non è mascherata. Ho avuto questa tentazione questa mattina, un barista tranquillamente faceva il lavoro senza mascherina, con l'aria proprio di sfida per dire: prova a dirmi qualcosa, poi senti te. Beh, oggi vorrei sottoporre a una sorta di valutazione nella media del nostro pubblico attraverso la modalità dei 30 secondi, che è una modalità molto efficace perché è il tempo aureo per poter esprimere un concetto che abbia un suo compimento, il fatto che probabilmente ognuno di voi che mi ascoltate ha degli episodi, degli aneddoti, delle vicende da raccontare sulla guerra delle mascherine. Ecco, io vorrei che oggi in 30 secondi mi raccontasse quello che negli ultimi mesi vi è accaduto riguardo all'uso o al non uso della mascherina, qualunque sia la parte, il fronte, la fazione a cui voi possiate appartenere. Una volta si litigava per problemi di circolazione, per precedenze, gesti, corna, brutti segni. E adesso lo stesso tipo di virulenza, di voglia di litigare, di rissosità sotto pelle, lo vediamo nei luoghi pubblici, nei luoghi frequentati, nel discrimine tra chi mette e non mette la mascherina. Ancora non è ben chiaro nel decreto, che è stato super proclamato ma ancora non raccontato nella sua interezza e totalità, quanto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ci sia scritto di preciso riguardo all'uso della mascherina: mascherina sempre all'aperto, mascherina in tasca, ma anche al gomito, anche al collo, anche come diadema, mascherina quando, comunque sia, visto che c'è una difficoltà, la difficoltà nel dichiarare chiaramente un obbligo di mascherina dimostra che chi deve anche gestire in qualche maniera il consenso e tenere conto di tutte le opinioni deve stare attento nel proclamare la necessità comunque di usare questo tipo di presidio. Quindi 80024 la vostro episodio. Tutto può essere raccontato in 30 secondi. Abbiamo studiato il tempo perfetto per contenere un brandello sonoro della vostra vita. Avete 30 secondi, non uno di meno, non uno di più, per lasciare la testimonianza orale di una storia che appartiene solo a voi. Chiamate ora all'800240024. Fate un respiro e usate al meglio i 30 secondi che vi consegneranno al grande archivio delle vite narrate. Time 800240024, mentre vi preparate a raccontare la vostra storia attraverso la modalità dei 30 secondi, che è quella che giudico più efficace per capire qual è il polso di una situazione, vi aiuto a fare strada nei vostri ricordi recenti o anche nei vostri ricordi di oggi. Nell'incertezza istituzionale nel dare delle norme precise e valide per tutto il territorio, è chiaro che chi vorrà censurare oggi o richiamare all'ordine una persona senza mascherina dovrebbe avere in teoria degli strumenti precisi a cui rifarsi. Poi che questi siano efficaci, validi o no, o ottengano una pronta risposta di indossamento della mascherina, non saprei dirlo. Detto fatto, è anche un po' difficile dire alla persona e spiegare alle persone quanto sia importante e necessario che mettano la mascherina. Come vi siete comportati in un luogo pubblico, in un mezzo di trasporto pubblico, in una situazione conviviale, quando avete visto una persona senza mascherina, o al contrario, quanto voi avete proclamato, come continua a fare Sgarbi alla Camera ogni giorno, ma è diventato il portavoce più folcloristico della rivendicazione della libertà individuale di non mascherarsi, perché è inutile. Ecco, qualunque sia la parte a cui appartenete, qualunque sia il vostro pregiudizio nei confronti della mascherina, raccontateci il vostro episodio di guerra della mascherina. Luca, buongiorno. Sei pronto? Salve, buongiorno. Salve. Sei pronto? Parlare con sì. Lei. Sì, sono allora, pronto. Sì, sei in macchina, sento, quindi fai ben attenzione, anche perché avrai il viva voce. Da quando parte il segnale? 30 secondi per raccontare il tuo episodio nella guerra delle mascherine. Vai. Ok. Allora, vivendo in questo periodo sia in Sicilia che anche nel Lazio, vedo che c'è una differenza sostanziale tra il senso civico, ma soprattutto anche dipende anche dalla omertà che alcune volte noi del sud impediamo di far rispettare l'obbligo della mascherina, mentre al nord, se qualcuno ci richiama, noi ci rimettiamo all'ordine, senza andare incontro a problemi anche di carattere pubblico, no? Cioè... Allora vediamo, Luca, tu dici, tu sei di origine siciliana, mi pare? Sì. Quindi tu vedi della differenza a seconda della latitudine nell'uso o non uso della mascherina. Ecco, hai un episodio preciso con chi sei entrato in polemica o chi hai visto entrare in polemica rispetto a questa vicenda? Perché tu dici che in realtà nei luoghi dove è fisiologico, endemico, il non rispettare alcune regole, e qua non credo di prendermi nessuna accusa di discriminazione, è vero, l'uso delle cinture di sicurezza, l'uso del casco con il motorino, diciamo, è molto più diluito nelle regioni del nostro mezzogiorno, è un fatto indubbio, si vede. Vale anche per la mascherina, questa diciamo idea che sia un sovrappiù, qualcosa di non necessario. Ma più che altro c'è, allora, durante il lockdown io vivevo a Roma e quando andavo a fare la spesa magari alcune volte mi veniva magari detto, ci guardi, si mette per fuori la mascherina, che magari c'è un momento in cui per esempio io non l'avevo, e io in maniera molto tranquilla l'ho messa. Quando sono ritornato in Sicilia e dovendo far rispettare per entrare nell'ascensore, che io non volevo entrare nell'ascensore né con una persona oppure senza la mascherina, ci sono persone che non mi salutano più. Quindi per hanno, dire, preso come hanno preso come un'offesa il fatto che lei ricordasse loro bisogna mettere la mascherina. Sì, è un atteggiamento diffuso, ne prendo atto. Allora, 30 secondi per Ugo. Ugo, pronto? Pronto? Vai. Sì? Buongiorno. Allora, sono un alpino valdostano, facciamo servizio di fronte alle chiese, di fronte ai collaboratori dell'USL, di fronte alle scuole per gli alunni, l'abbiamo fatto in maturità, con la mascherina che abbiamo dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, abbiamo scritto, fiero di essere un alpino, di proteggerti e di proteggermi. La mascherina dell'ANA più il cappello alpino evita qualsiasi polemica. Tutte le persone ci dicono, va bene, mettiamo le mascherine. Cioè Ugo dice che occorre il deterrente della penna dell'alpino perché le persone mettono la mascherina senza discutere. Quindi serve, non è la deterrenza, è perché noi siamo conosciuti per il nostro, l'Associazione Nazionale Alpini è sempre presente ed è molto pragmatica. Quindi ho capito, diciamo, se c'è un'istituzione che ispira fiducia incondizionata e che si prende la responsabilità e l'onere, perché oggi guarda che è molto difficile, si entra subito in un gioco di fazioni, certo, molto pericoloso, però gli alpini hanno avuto il coraggio e la responsabilità di dire, guarda, te lo diciamo noi che devi metterla, e dove, almeno nelle regioni dove c'è una forte presenza, mi sembra di capire, e una forte riconoscibilità di alpini, questo funziona. La ringrazio. Tommaso, allora Tommaso, voglio episodi personali però sulla guerra delle mascherine, se no facciamo solo delle dichiarazioni importanti, interessanti, le abbiamo avute da due diversi punti di vista del nostro paese, però vorrei un episodio sulla guerra delle mascherine, vai. Allora, è proprio un episodio di qualche giorno fa, io camminavo per strada sul marciapiede, si è accostata una volante della polizia, mi ha chiesto i documenti, io ero insieme a due amiche andando a cena per il compleanno di una di queste, non avevano la mascherina, io gli ho chiesto di mettersi la mascherina e si sono messi a ridere, mi hanno restituito poi dopo aver controllato i documenti, io ho chiesto di sanificarli i documenti chiaramente e si sono di nuovo messi a ridere dicendo queste cose le fanno i vigili, e io sono rimasto piuttosto turbato da questa arroganza, no? Chi invece dovrebbe proprio rispettare la legge essendo espressione della legge. Io trovo che sia un episodio sgradevole, perché io tutte le volte che ho visto in questi giorni, almeno nella città di Roma, forze di polizia in pattuglia, fuori dell'automobile, scende a salire, avevano tutti la mascherina, avevano tutte le norme di sicurezza. Quindi questi agenti, evidentemente, ridendo, hanno dato un pessimo esempio. Evidentemente l'idea e l'ideologia della mascherina purtroppo dilaga in tutti i fronti, nelle sue fiere rappresentazioni. Sentiamo Andrea. Andrea, buongiorno. Sei pronto? 30 secondi? Vai. Vai. Buongiorno a tutti. La settimana scorsa entro in una farmacia genovese con la mia compagna, farmacia perfetta con tutti i segni di distanziamento, i separatori e i banconi, chiediamo di parlare con il dottore. Il dottore a un certo punto esce da dietro al separatore dicendo mamma mia, che scocciatura sul separatore, non ne posso più, con la mascherina tirata che scopriva il naso e mezzo baffo, e si mette a meno di un metro da noi e comincia a parlare. Io già ho istinto di intervenire, per un momento non lo faccio, poi a un certo punto lui comincia attivamente a dire ma tanto la mascherina non serve a niente, è inutile mettersi. Ho detto guardi che l'evidenza scientifica dice un po' il contrario. No, ma non è vero, lo dicono anche gli esperti, tipo Montanari. Mi fermo un attimo, ho detto ma chi Stefano? E lui fa, ah sì, certo, ho detto vabbè. e me ne sono uscito. Cioè, una cosa incredibile. Cioè, io dico... Certo, è che un medico farmacista cita un abbastanza discutibile parere di un medico che si proclama molto dubbioso sull'efficacia dei vaccini e ribadisce il fatto lui che dovrebbe essere un venditore di presidi sanitari che poi non servono a niente, non saranno in assoluto la salvezza o il baluardo impenetrabile verso il Covid, ma se una persona ha la mascherina, io ho la mascherina, si abbassano le possibilità che possiamo scambiarci, sputarci e sputarsi infetti, questo è poco ma sicuro. Ci fermiamo ancora un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Cosa ci sta a fare sul pullman? Sta lavorando, gli dice di mettere bene la mascherina. Ma io ce l'ho messa, che dopo via, pronto? No, deve coprire il naso. Cioè lei è una donna, gli dicono non rompe i coglioni, non dice niente. Io non lo so, ma che uomo è lei? Che uomo è lei? E io chiamo i carabinieri. A quanti episodi simili abbiamo assistito in questi giorni, a quanti ne sarà possibile assistere nei giorni seguenti, soprattutto dopo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quante persone ci guarderanno con l'occhio scettico, l'aria lievemente arrabbiata, infastidita, compassionevole, se noi rivendichiamo il fatto che debbano mettersi la mascherina? Quanta gente ci urlerà addosso, ci strillerà, ci aggredirà se noi in quel momento siamo senza mascherina in un posto in cui occorre metterla? Come vedete, non prendo posizione, anche se la mia posizione l'ho più volte espressa. Non vedo quale sia il problema di mettersi una mascherina, non lo so. Abbiamo avuto epoche nella nostra storia in cui a scuola i ragazzi facevano esercitazione con le maschere antigas, e tuttora a certe latitudini è un presidio necessario, perché c'era il pericolo di essere bombardati ed essere avvelenati con dei gas. Oggi per una mascherina che pesa pochi grammi, che in alcuni paesi dell'estremo oriente portano abitualmente da sempre, capito? Ci si gioca il proprio principio di libertà. Gabriele, sei pronto? Buongiorno. Sì, in sintesi. Allora vai, 30 secondi subito. In sintesi, sabato sera ad un concerto sinfonico dove era rispettata il distanziamento con un posto sì e due posti no, eravamo tutti con la mascherina ed una signora non lo aveva. È stata ripresa per il fatto e invitata a mettersela, e questa ha difeso le ragioni del distanziamento per non mettere la stessa. Ci sono state delle discussioni, seppur pacate, e la testardaggine di questa ha fatto sì che il concerto slittasse, fino a che a un certo punto il responsabile si è alzato, dello stesso organizzatore, intimandola a metterla o a lasciare il concerto. Questa, borbottando, ha lasciato il concerto. Molto chiaro. Massimiliano, sei pronto? Sì, ci sono. 30 secondi, vai anche te. Sì, guardi, io mi occupo di sicurezza sul lavoro e mi è capitato di fare degli incontri di formazione, più che mai in questo periodo, e negli incontri di formazione che ho fatto mi è capitato di avere tipicamente il negazionista che non voleva mettersi la mascherina e veniva ripreso dai suoi colleghi. In un caso sono arrivati quasi alle mani, negli altri casi invece la situazione si è risolta un po' più rapidamente. Da quel momento in poi io chiedo prima alle aziende se ci sono negazionisti e non li faccio partecipare ai corsi di formazione, perché questi la mascherina non se la mettono, punto e stop. Ecco, questo è toccato dei punti interessanti. Allora, sul termine negazionista molti si irrigidiscono, perché è un termine molto brutto, usato in passato per coloro che negavano l'esistenza dei campi di sterminio nazisti. Però è un termine che rende l'idea, sono quelli che negano la pericolosità del virus, l'uso della profilassi attraverso le mascherine o i metodi messi in atto, insomma, se ne fa un fatto politico. Il presidente degli Stati Uniti l'altro giorno, impavido, si è smascherato pur avendo il Covid per dimostrare che in fondo lui magari non lo dice apertamente, ma è contrario. E questo atteggiamento è diffuso, distribuito attraverso vari livelli, cioè chi dice ma sì, in fondo io la metto, però sarebbe inutile, via dicendo, chi dice una cazzata. Libero ognuno di dire quello che vuole, di esprimere il suo parere, però è chiaro che è anche lecito da parte di Massimiliano dire benissimo, tu pensi che sia tutta una stupidaggine, che non c'è bisogno della mascherina, che in nome della libertà possiamo andarcene tranquilli, che è sta cazzata del Covid, però non vieni a fare la mia formazione. Sono delle contromisure che alla fine diventeranno attuabili ovunque. Non entri nel mio ristorante se tu pensi che sia una cazzata, non vai al mio bar, non entri nel mio taxi, non ti avvicini alla mia palestra e via dicendo. Se ci fossero queste norme, probabilmente sarebbe limitata la libertà di chi non crede, però probabilmente ci sarebbe maggior salvaguardia dell'interesse di tutti, della salute generale. Alberto, sei pronto? Pronto, buongiorno, mi sente? Vai, sì. Benissimo, vai, 30 secondi. Okay, la mia esperienza riguarda il momento in cui le mascherine ancora non erano obbligatorie, anzi se ne raccomandava l'uso solo a chi fosse sintomatico per lasciarle agli operatori sanitari. Io andai a fare la spesa leggermente tenendo le distanze, ma senza mascherina, e venni insomma redarguito abbastanza pesantemente da un altro cliente che poi, uscendo, ho visto che aveva parcheggiato la macchina in divieto di sosta, quindi lui in poche parole mi accusava di aver infranto una regola all'epoca inesistente, invece lui tranquillamente ne infrangeva una, diciamo, stradale, fregandosene degli altri. Ecco, questa è la mia esperienza. Sì, cioè, lì hai visto la differenza, se mi permetti. La macchina in divieto di sosta è un problema suo con l'amministrazione comunale, non mette a repentaglio la salute di nessuno. Il fatto che la mascherina era meglio che la usasse, con gentilezza e cortesia avrebbe fatto meglio infilarsela, come ci siamo messa tutti, poi dal momento in cui è stato necessario per fare la spesa, e parlo del lockdown, l'abbiamo tutti messa. Matteo, sei pronto? Buongiorno. Vai Matteo, allora, 30 secondi. Io sono titolare di un ristorante da sport e fin dal primo momento della quarantena a febbraio ho sempre continuato a lavorare, ho sempre visitato le case delle persone a cui facevo le consegne, e nel corso del tempo ho visto sempre una maggiore insofferenza verso le mascherine, come se mano a mano che le cose progredissero diventasse sempre meno importante la protezione sia personale sia delle persone con cui si veniva a contatto, forse fomentato anche dalle varie notizie su internet che giravano a disposizione delle persone. Quindi, diciamo, dal tuo osservatorio, che ogni giorno entri in tante case probabilmente per la tua professione, sì, esatto, hai notato quale fenomeno? Risintetizzalo. Che c'è stato un lento e progressivo abbandono di questa precauzione? Precisamente, proprio questo. Dal primo momento della quarantena, dove sembrava esserci un pericolo reale, tangibile, immediato per tutti, e allora tutti usavano i guanti, le mascherine, il gel, disinfettavano, addirittura ti tenevano fuori dalla porta di casa perché volevano la consegna sul tavolino, ti mandavano i soldi attraverso le varie applicazioni, ti pagavano attraverso le applicazioni, non più in contanti o addirittura nemmeno col bancomat. Mano a mano, con il trascorrere del tempo, ho visto sempre meno queste precauzioni, le persone si sono tra virgolette abituate, e come se fosse diventato normale, come se il pericolo fosse mano a mano scomparso. Ma quando uno viene ad aprirti la porta a prendere il pacco della merce che consegnano, diciamo, i tuoi collaboratori, normalmente hanno la mascherina o sono senza? Ultimamente sono pochissimi quelli che le usano, sono veramente molto pochi, sto notando che su una decina di persone forse una o due al massimo. Mentre, diciamo, i tuoi collaboratori devono per forza avere la mascherina necessariamente, no? Noi siamo obbligati ad utilizzare i dispositivi medici, le mascherine, i guanti, a igienizzare tutto il materiale che viene utilizzato, le borse termiche, eccetera, eccetera. Va bene, grazie Matteo. Mario, ultimo, 30 secondi, facciamo in tempo, sì, dai, 30 secondi. Eccoci qua. Allora, io sono un parziale negazionista, nel senso che, avendo avuto il Covid nel lontano marzo ormai, mi chiedo perché io debba ancora utilizzarla. Ci sono stati 4 casi su più di 35 milioni di ricadute, più di 35 milioni di casi accertati nel mondo. Perché dovrei usare la mascherina e perché tutti quelli che come me hanno avuto il Covid dovrebbero utilizzarla? Non ha senso, nessun senso. Ti risponderei, ma non sono un medico, quindi non è l'elemento per risponderti, però il buon senso certo. potrebbe pensare, tu non hai più il Covid, ma non è detto tu possa continuare a essere persona che trasmette il virus del Covid, questo nessuno lo può dire con certezza, quindi per rispetto verso gli altri, semplicemente per rispetto verso gli altri, un po' difficile avere una maglietta con scritto già ce l'ho avuto, non mi rompete le palle, anche perché chi ce l'ha avuto molte volte, alcune volte può anche tornare, o perlomeno potrebbe farsi trasportatore del virus, per rispetto verso gli altri sarebbe la mia risposta, però oggi come sempre faccio rispetto ogni parere. Ci fermiamo ancora. Melog. Guardi, lei mi sta mettendo veramente in una condizione. Io non sto mettendo sì, è lei che ha fermato il treno. Io non ho fermato sì, lei ha fermato il treno. Lei ha fermato il treno. Signora, senza rispetto per le gente, per lo Stato. Quindi io adesso devo mettermi la mascherina perché così tutto funziona come deve funzionare. Sì, certo. È questo tutti che volete. Facciamo votazioni, chi per mascherina? Anche un treno da prendere. Chi mai per mascherina? Facciamo alzare le mani. Quindi io devo mettere la mascherina. Sì, noi siamo popolo e tutti per mascherina. Chi per mascherina? Tutti. Maggioranza, e allora noi siamo popolo, voi potete ubbidire a popolo. Siete un popolo di schiavi però. Sì, va bene. Grazie a Gianmarco Ferronato, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti che mi permettono di andare serenamente in onda da casa mia. Quello che avete sentito è un esempio che meriterebbe un approfondimento antropologico. La signora straniera, probabilmente una badante dell'est, richiama il principio del popolo e fa una votazione improvvisata nello scompartimento di un treno per chi vuole la mascherina, perché la signora, molto radical chic e molto intenta a dimostrare al popolo, appunto, che in realtà lei è illuminata nella difesa della libertà, non vuole mettere la mascherina. E il capotreno ha fatto fermare il treno e il treno non riparte. Avete 30 secondi per raccontare episodi simili nella guerra delle mascherine. Giulio, sei pronto? Certamente, Nicoletti, buongiorno. Vai, allora, 30 secondi. Grazie. Il mio episodio si iscrive nell'inizio di tutta questa storia. Ero a fare la fila in un supermercato e da tutta la fila mi stavano prendendo in giro dietro di me, ma che gli serve con la mascherina lì? Cosa se ne fa? Ridicolo, eccetera. Arrivo alla cassa, pago per poter scappare e mi prendo la mia vendetta. Lentamente mi giro verso chi era dietro di me che mi sghignazzava e ho fatto loro: ma signore, io non sto proteggendo me. Sto proteggendo voi, visto che sono positivo. Hanno fatto uno zompo indietro in 20 persone di 10 metri. In quel momento me ne sono fuggito, ma ho avuto la mia vendetta. Sono stato molto soddisfatto, devo dire. Questa è la allora, mia esperienza. Giulio, chi mi vede in questo momento dal video sul sito di Radio 24, come vede anche Chiappini che è circondato da mascherine dalla sua postazione, mi ha visto sorridere. Certo, è una cosa che non si fa, è un procurato allarme, lei potrebbe aver gettato del panico, ha detto una cosa non vera, però ci sta tutto per capire il fenomeno. L'hanno presa in giro dandogli dell'Umarel pauroso che aveva la mascherina, ma come le ha detto io sono infetto, quindi lei ha un possibile untore, sono scappati via tutti, quindi tutti giocano sul fatto e sul pregiudizio che in realtà non ci sia pericolo. Ma provate a dire a qualcuno: guarda, tu puoi anche non mettere la mascherina, ma la tolgo anche io, però ti dico sono positivo. E cosa succede? Cosa da non fare, perché si creerebbe un altro problema di ordine pubblico, si commetterebbe un reato. Però capisco l'operazione, la vendetta di Giulio. Sentiamo Patrizia, pronta, 30 secondi, vai. Certo, buongiorno. Parrucchiere, arriva una, io sono lì seduta a far la tinta, arriva una signora, si abbassa la mascherina. Quella mattina il proprietario non c'era, c'erano i lavoranti, nessuno le dice niente e quindi io le chiedo di tirar sulla mascherina. Questa mi dice: carina, tanto siamo lontane. Io con calma le spiego che c'è una regola che deve tenere sulla mascherina nei luoghi chiusi, quindi la mette su. Dopo poco arriva un lavorante e mi dice: signora, se non si sente tanto protetta, vuole andare in una saletta a parte? A quel punto lì ho sclerato, gli ho detto: no, grazie, la signora che non mette la mascherina va nella saletta, non io che rispetto le regole. Bene, mi rendo conto, Patrizia, che chi stia ascoltando questa, chi stesse ascoltando questa trasmissione, potrebbe avere l'impressione di dire: guarda, hanno radunato questa mattina a me tutti i paurosi, tutti i potenziali schiavi, tutti gli schiavi del mainstream, tutti quelli che non hanno capito quale grossa congiura ci si è detto il fatto di doverci mettere tutti mascherati, se non quelli che dicono che la mascherina fa respirare l'anidride carbonica e quindi c'hanno già i casi di bambini morti soffocati perché hanno respirato l'anidride carbonica della mascherina. Quello su cui invece mi avrebbe fatto piacere riflettere, e lo farò con le persone che ancora ci sono di buon senso e che mi ascoltano, che in realtà mi sembra veramente paradossale usare come elemento chiave, come punto di contrasto per riaffermare il diritto alla libertà, che è un diritto sacrosanto, o per svolgere una battaglia politica, che è altrettanto sacrosanta, un tema di così semplice risoluzione. A nessuno fa piacere, ma voi pensate alla deputata che ieri dalla sua sedia, con grossissimi problemi di salute, con un problema molto importante alla spina dorsale, ha detto: io la tengo 8 ore al giorno, per me respirare è grossa fatica. E mi fa specie che voi parlamentari dobbiate essere ripresi continuamente, perché alla fine, pur stando in un posto in cui sta tutti promiscui, considerate secondario mettersi la mascherina. Certo è che se siamo un popolo che non può nemmeno affrontare il disagio di mettersi una mascherina di pochi grammi, e su quello si gioca i massimi sistemi della procurazione della libertà, quale altro sacrificio potremmo noi compiere che limiti le nostre abitudini e consuetudini quotidiane in nome della salute generale? Franca, buongiorno, sei pronta? Buongiorno, allora vai. Io volevo parlare 30 secondi, fai partire il timer, fai partire il timer, vai. Volevo parlare proprio di ciò che ci spinge a portare la mascherina: l'amore per il prossimo. La paragono alla legge del semaforo. Il semaforo rosso ti dice non devi passare, però a malauguratamente alcuni lo passano, però a grave rischio della propria vita, ma a quella degli altri. Quindi se amiamo la nostra vita e quella del nostro prossimo, la mascherina la indosseremo di cuore. Grazie. Grazie Franca. Gabriele, velocemente, siamo verso la fine della trasmissione, voglio mandare più testimonianze possibili. Gabriele, vai, 30 secondi. Sono andato in farmacia un giorno lì vicino a casa mia e c'era un signore fuori, avrà avuto una 50 d'anni, senza mascherina, appoggiato al palo, al lampione. Io gli passo di parte e mi accingo per andare in farmacia, questo qua da dietro mi chiama e mi dice: uè giovane, io sto facendo la fila. E io lo guardo e gli ho detto: scusi, sto facendo la fila per entrare in farmacia senza mascherina. Questo qua, quando gli ho fatto notare che non aveva la mascherina, mi ha infamato di parole in una maniera allucinante. È chiaro che l'abbia infamata di parole, perché chi non porta la mascherina compie giustamente, dal suo punto di vista, lecitamente, ma questo lo dicemmo già mesi fa, un atto politico, un atto di rivolta. Non mettere la mascherina oggi significa far parte di un fronte di persone che ha una chiara visione della realtà e dice che in realtà il Covid è ipervalutato, che le norme di sicurezza in realtà sono norme di coercizione per mantenimento di un'egemonia, di un potere, via dicendo. Oggi abbiamo avuto comunque la conferma che almeno la maggior parte del nostro pubblico sta dalla parte di chi accetta questo sacrificio in nome della salute anche degli altri. Alla prossima. Mm.